America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. L'attacco violento, sanguinoso a Bengasi, a 55 giorni dalle elezioni, l'America è entrata in una grave crisi di sicurezza nazionale. Non c'è più alcun dubbio ormai che l'attacco al consolato di Bengasi, che ha ucciso l'ambasciatore Christopher Stevens e altri tre diplomatici americani, sia stato premeditato da una frangia terroristica, forse ispirata o legata a Al-Qaeda. La motivazione, diciamo, superficiale di questi attacchi la conosciamo. Si dice che sia stata una reazione a un video che insultava il Corano e Maometto. Muhammad is Allah's messenger and the Quran is our constitution. Yeah! Abbiamo trovato degli spezzoni di questo video, un video stupido e un video malfatto e un video poco intelligente. Ecco, anche da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del filmato, stupisce che questo video possa davvero aver avuto questo impatto. Mi dicevano che quando è stato proiettato per la prima volta a Los Angeles c'erano forse 10 persone a vederlo, non è mai apparso in una sala, è stato soltanto su internet e solo quando è stato tradotto che poi ha infiammato gli islamici e ha provocato le dimostrazioni. Facciamo subito una distinzione: la dimostrazione al Cairo è stata una dimostrazione davvero popolare, forse anche istigata dallo stesso governo guidato dal presidente Morsi della Fratellanza Islamica. Dal Cairo non ci sono state parole contro le dimostrazioni, ma addirittura una richiesta di scuse formali per questo video di questo signore che si chiama Sam Bessil, che è un israeliano che vive in America, che ha raccolto fondi qua e là per poterlo realizzare. Adesso si nasconde, ha chiesto scusa, dice che non si rendeva conto che potesse suscitare tali reazioni. The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking attack. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è intervenuto ieri mattina, ha parlato dal Giardino delle Rose, al suo fianco Hillary Clinton. Devo dire un momento piuttosto solenne, un momento di grande emozione, anche se Obama è apparso businesslike, piuttosto freddo nel descrivere la dinamica degli eventi. Ieri ha detto: quattro straordinari servitori dello Stato sono stati uccisi in un attacco terroristico a Bengasi, tra questi il nostro ambasciatore Chris Stevens. Gli Stati Uniti condannano quest'atto vergognoso per il quale non c'è giustificazione, lavoreranno insieme al governo libico per consegnare alla giustizia gli esecutori di questo attentato. Make no mistake, ha detto Obama, non fate errori, giustizia sarà fatta. Ecco, non so in che tempi justice will be done, ma da ieri notte sappiamo che ci sono due navi da guerra americane che si dirigono verso la Libia, sappiamo che dalle porte aeree dislocate nel Golfo sono già stati inviati 200 Marines con possibilità di operare con mezzi anfibi e sono stati dislocati in parte in Libia, in parte al Cairo, in parte in Afghanistan. Non è chiaro se questa sia già una forza di comando per cercare di identificare i colpevoli, ci sono delle foto di questi dimostranti e soprattutto ormai è chiaro che erano organizzati con dei razzi, con delle mitragliatrici, con delle bombe a mano, non era questa una dimostrazione spontanea, come dicono fonti americane si trattava di un attacco organizzato. C'è stato anche un video da Al-Qaeda 24 ore prima questo attacco in cui si chiedeva ai fratelli libici di intervenire per vendicare l'uccisione di un loro fratello. Il video era di Ayman al-Zawahiri, il leader in questo momento di Al-Qaeda, uno dei suoi luogotenenti libici, Abu Yahya al-Libi, era stato ucciso da un drone americano. The Embassy of the United States issued what appeared to be an apology for American principles. That was a mistake. Ecco, questa crisi di sicurezza nazionale in America giunge nel bel mezzo delle elezioni americane, siamo in dirittura finale e naturalmente Mitt Romney si è sentito in dovere di intervenire, è intervenuto purtroppo con una nota secondo me non gradevole, ha attaccato l'amministrazione. Perché? Beh, perché dall'ambasciata del Cairo è stata diramata una nota che non suonava bene. Romney dice: l'ambasciata degli Stati Uniti in Egitto ha emesso una nota che sembrava scusarsi per quelli che sono i nostri valori come la libertà di parola e questo è stato un errore e credo che quando viene commesso un errore di tale importanza occorre dire qualche cosa. l'amministrazione ha sbagliato. Ecco, Romney secondo me è andato un po' sopra le righe. Vi dico anche che cosa diceva il comunicato dell'ambasciata al Cairo. Dice: l'ambasciata degli Stati Uniti al Cairo condanna questi sforzi continui di individui maldisposti che cercano di ferire i sentimenti religiosi dei musulmani, condanniamo gli sforzi per offendere i credenti di tutte le religioni. Oggi, nell'undicesimo anniversario dell'11 settembre, gli americani rendono onore ai loro patrioti, a coloro che hanno servito la nostra nazione. Il rispetto per il credo religioso è una pietra angolare della democrazia americana e respingiamo fermamente le azioni di coloro che abusano dei diritti universali di libera espressione per ferire il credo religioso degli altri. Ecco, questo comunicato in effetti non critica gli attacchi all'ambasciata al Cairo, non critica le dimostrazioni a Bengasi, è un comunicato che semplicemente attacca e critica questo stupido filmato. Per questo la reazione di Romney, peraltro da alcuni anche giustificata. Il fatto è che poi il presidente è intervenuto, si è poi capito che in Libia l'attacco era in realtà un attacco terroristico in grande stile, che c'è una crisi di sicurezza nazionale. E beh, la regola non scritta in America dice, lo ha ripetuta un repubblicano proprio alla convention, l'ho sentito quando ero a Tampa, le differenze fra noi si fermano ai nostri confini. Quando c'è una crisi internazionale il paese si deve unire. Romney non credo ci abbia fatto una gran bella figura finora. The world tells Israel, wait, there's still time. And I say, wait for what? Benjamin Netanyahu, l'equazione si complica perché non c'è soltanto l'ambasciata del Cairo, non c'è soltanto Bengasi, c'è la crisi siriana, c'è un calderone medio orientale esplosivo, c'è Benjamin Netanyahu che ha, così dicono le indiscrezioni, alzato il filo delle tensioni nei confronti di Barack Obama. Perché? Perché ci si trova in disaccordo su cosa fare nei confronti dell'Iran. Il mondo, dice Netanyahu, lo avete appena sentito, ci dice di aspettare, ma aspettare che cosa? Fino a quando? La comunità internazionale che rifiuta di porre dei limiti all'Iran, delle linee rosse all'Iran, non ha il diritto morale di porre dei limiti, delle linee rosse a Israele. Dunque una minaccia di attacco. Ecco, devo dire, una situazione così drammatica non l'avevamo da parecchio tempo. È come se fosse esploso tutto simultaneamente, guarda caso proprio attorno all'undicesimo anniversario dell'attacco dell'11 settembre. È soltanto il giorno dopo che poi ci siamo accorti della dimensione degli attacchi di Bengasi. Chiudo con una voce della ragione, quella di Hillary Clinton. This question reflects just how complicated. Ecco, la Clinton dice: questi episodi ci ricordano quanto il mondo sia complicato e quanto ci disorienti a volte, ma dobbiamo restare lucidi anche nel nostro dolore. Questo è stato il gesto di un piccolo gruppo di estremisti, non del popolo, del governo libico. Dunque, barra dritta da parte dell'amministrazione Obama. Il rapporto col governo libico non viene messo in discussione, non si è trattato di un atto di guerra, piuttosto insieme si cercherà di colpire questi terroristi. Si dice che possano essere stati addestrati vicino a Derna, nella Libia orientale. Sappiamo anche che Barack Obama e Netanyahu hanno poi parlato per oltre un'ora nella notte di martedì al telefono. Anche in quel caso ci si augura che abbiano risolto le loro differenze. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 18 settembre qui a New York Jay-Z e la sua compagna Beyoncé ospiteranno un evento di raccolta fondi per il presidente Obama. Beh, siamo in crisi di sicurezza nazionale, ma le elezioni vanno avanti. Sarà un evento ristretto, centinaio di persone, costo del biglietto $40,000. Sarà anche l'ultima visita di Obama a New York, uno stato sicuro prima delle elezioni. E dunque dedichiamo a Jay-Z la canzone del giorno, Forever Young. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. So we living life like a video. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!